questa sera, giovedì 3 marzo alle ore 18:30, FQ Libreria Trame e TPO presentano il libro Campo di Battaglia di Carolina Capria e noi siamo qui per parlarne proprio con l'autrice. Buongiorno Carolina e benvenuta ai microfoni di Radio Città Fujiko. Buongiorno a te e grazie dell'invito. Allora Carolina, io partirei un po' dall'inizio, diciamo più o meno dall'inizio. Dal 2018 sei sui social come Instagram e Facebook con lo pseudonimo L'ha scritto una femmina, un profilo in cui tu raccogli tutte quelle esperienze letterarie che hanno la caratteristica comune di essere frutto proprio di autrici femminili. Quindi ti volevo chiedere da cosa è nata la volontà di creare questo spazio esclusivamente al femminile? È nata dalla constatazione che in effetti le donne godessero di meno riflettori puntati addosso. Io scrivo libri per ragazzi da ormai 15 anni, faccio questo lavoro, e L'ha scritto una femmina proprio come espressione, è un'espressione che ho preso dai ragazzini che spesso e volentieri quando andavo nelle classi a presentare libri, a parlare di letteratura, torcevano il naso di fronte ai libri scritti dalle donne perché credevano che fossero libri non rivolti a loro e anche noiosi, e quindi capitava spessissimo che mi dicessero: no, questo non lo vogliamo leggere, L'ha scritto una femmina, questo è noioso perché L'ha scritto una femmina. E visto che era un'espressione che mi sono sentita rivolgere veramente spesso, ho deciso di provare a ribaltarla, di farlo diventare un punto a favore. Se L'ha scritto una femmina non è una cosa negativa, è una cosa che può essere molto positiva perché può darti una visione del mondo che non possiedi, e quindi è nato così L'ha scritto una femmina. Nel tuo libro che appunto abbiamo citato, Campo di Battaglia, le lotte dei corpi femminili, parli delle imposizioni o delle aspettative che sono continuamente proiettate sul corpo di noi donne. Ti volevo chiedere come affronti questo tema all'interno del libro e se riesci anche a dare una sorta di via per riappropriarsi del nostro corpo. Allora, sulla via ho qualche problema, nel senso che è un percorso molto lungo quello di riappropriazione del corpo. Il libro è un po' un ibrido tra un saggio e un memoir, perché ho provato a raccontare anche molte esperienze mie, anzi nella maggior parte dei casi sono partita da mie esperienze per poi vedere che elementi possedevano di universalità. E quindi mi sono affidata a chi aveva scritto prima di me, a chi mi aveva parlato prima di me, per cercare di tracciare un po' un sentiero che consentisse di vedere a quello che succede a noi come qualcosa che succede a tutte le donne, perché spesso mi è capitato tantissimo, portando questo libro in giro, che le lettrici, perché poi sono nella maggior parte donne, mi dicessero: è stato stranissimo ritrovarsi in quelle esperienze, perché io quelle esperienze credevo fossero mie, non fossero così diffuse, non fossero comuni. Invece in realtà, per esempio, io parlando dell'atteggiamento che si crea nei confronti, dell'atteggiamento che le persone hanno quando una ragazza comincia a, quando una ragazza è il menarca, quindi quando cominciano le mestruazioni, che è un atteggiamento che l'atteggiamento delle persone cambia, non sei più una bambina che è libera di usare il proprio corpo, che non è soggetta allo sguardo, ma diventi una ragazzina che al corpo ci deve stare attenta, lo deve tenere sempre sotto controllo, non può tornare più a una determinata ora, non può vestirsi più in un determinato modo per non incorrere i sguardi indesiderati. E questo atteggiamento che degli altri, che cambia nei nostri confronti, ci comincia a insegnare che il corpo in realtà è una cosa di cui ci occupiamo, ma non è mai veramente il nostro possesso. E questa è una cosa che in tanti modi diversi, perché poi ogni parte d'Italia è diversa, ogni famiglia è diversa, però questa cosa l'abbiamo un po' vissuta tutte, questo passaggio, questo restringimento della libertà che coincide con l'arrivo del menarca. Ti volevo chiedere anche qual è stato l'approccio nella scrittura di questo libro, se mi immagino sia stato differente da appunto l'approccio nella scrittura di libri per bambini, per bambine, che citavi anche tu all'inizio dell'intervista. Sì, ogni pubblico, diciamo, di riferimento è diverso, evidentemente. I temi sono sempre gli stessi, nel senso che io scrivo libri per bambini e bambine, ma non mi sono mai limitata nei temi, porto a loro gli stessi identici temi che mi interessano nella mia vita quotidiana e che affronto con gli adulti, quindi una differenza di temi non esiste. Esiste chiaramente una differenza di linguaggio, anche di modo in cui le cose vengono poste. Con Campo di Battaglia l'idea era quella di che la persona che leggeva avesse l'idea di essere in compagnia di un'amica, Ecco, era un po' quello che l'obiettivo che mi ero posta, cioè di creare un'atmosfera che fosse tranquilla e sicura, cioè sentirsi accolta e non giudicata, perché è una cosa che purtroppo sentirsi giudicata, diciamo, che capita così di frequente, per mille motivi, che siano l'aspetto, che siano le scelte, che veramente è stato un po' l'obiettivo che mi sono imposta sempre. Non c'è una scelta che è sbagliata, non c'è una scelta per cui ti giudico. Esiste la tua esperienza, esiste il tuo modo, e sei sempre accolta, devi essere sempre accolta dalle altre persone. Quindi credo che perlomeno quello che avevo sempre in testa era quello di creare questa atmosfera che fosse quanto più amichevole, ecco, possibile. Perfetto, Carolina, io ti ringrazio veramente per averci raccontato da più vicino il tuo libro Campo di Battaglia. Ricordo ancora una volta che appunto questa sera proprio a Bologna al TPO ci sarà la presentazione del tuo libro. Grazie ancora. Grazie mille a te. A stasera.